Il coach ha indovinato 2 su 2 la prima volta nella storia. Coach, non è che magari adesso non te li fanno fare più visto che li prendi? Ragazzi, io non voglio cantare vittoria perché giocano altre 2 partite oggi, posso fare 0 su 2, però 2 ottime vittorie di Teramo e di Virtus Bologna, perché non partite facile, perché Teramo batte Avellino che era campione in carico e la Virtus batte Roma che è una squadra che lotta per il titolo, quindi 2 buone vittorie. Secondo te la Coppa, secondo i tuoi pronostici, non sfuggirà al cannibale Siena questa volta? No, sì, Siena quest'anno assolutamente, cioè, sono un rullo compressore e loro sono molto scocciati secondo me dal fatto che tutti dicono non hanno vinto la Coppa Italia, un trofeo che non ha mai fatto, hanno fatto Final Four di Eurolega ma non hanno vinto la Coppa Italia eccetera, scudetti sì, Coppa Italia no, quindi loro sono molto scocciati e motivati per questo, e quindi auguri a tutti che li incontro, povero Cantù, questa sera. Virtus Bologna perfetta, Coach, ieri sera, eh? Virtus Bologna perfetta nel primo tempo. L'impressione è che Boykins abbia finalmente la squadra in mano, che si siano capiti, yeah. Boykins, Bonicioli, Bonicioli e la squadra, yeah. Insomma, mi sembra che la Virtus Bologna abbia incominciato il suo cammino sul serio. Yeah, assolutamente, soprattutto dico che cioè, Boykins ha capito, a mio avviso, la squadra, l'allenatore, ma anche la realtà del basket italiano, l'importanza del campionato, l'importanza dei tifosi, cosa dicono il generale, come fanno gli arbitraggi, chi sono gli avversari, i campi, 100.000 cose che un americano che viene da un altro pianeta, un altro mondo, ovviamente tutti fanno un po' di fatica a capire, cioè, ma anche per questo motivo spesso le squadre in Italia ingaggiano americani che hanno giocato altrove, o in Italia o in Europa. Infatti tu vedi tutti gli stranieri di Siena, sono quelli, c'è Caucanes viene da Cantù, Storno viene da Cantù, eccetera, eccetera. Quindi McIntyre viene da Reggio Emilia e quindi Finley viene da Rieti. Quindi vogliono l'usato sicuro, come si dice in Italia, perché sanno che c'è un grande periodo di aggiustamento. Però, Coach, non credo sia da sottovalutare assolutamente quello che ha detto Carlo prima. Bonicioli ha capito anche la sua squadra, soprattutto la posizione di Charlotte Ford. Io continuo a picchiare su questo tasto perché con l'arrivo di Rayshon Terry, Ford ritrova la sua posizione naturale, secondo me. Sì, ma guarda, innanzitutto, cioè, Bonicioli ovviamente sta facendo un ottimo lavoro, voglio anche sottolineare questo, ma non dimentichiamo Tonino Zorzi, il suo vice allenatore, l'anno scorso a Avellino, con lui a Bologna quest'anno, il mitico Paron è uno che ne sa uno più del diavolo, okay? Quindi è un super Paron, e lui secondo me è un grande contributo a tutto questo, ovviamente Bonicioli che ha avuto una grande partenza, poi un momento di flessione, adesso hai detto perfettamente che Boykins ha capito Bonicioli e la squadra, Bonicioli ha capito Boykins e la squadra e via dicendo, e adesso la Virtus, se vanno avanti a fare la finale di Coppa Italia, che secondo me possono anche fare, magari perdono con Siena, poi giocano in casa, può succedere tutto, loro possono rimpiazzare Roma come la prima squadra diciamo concorrente per lo scudetto di Siena. Questa non dico che succederà, ma dico che è molto possibile, perché adesso Boykins, che gioca in attacco, gioca con costanza e difende meglio, prima non era esistente in difesa, adesso sì. Intanto invito anche gli ascoltatori, naturalmente come sempre 800 24 00 24, le telefonate, i messaggi al 349 238 6666, ne abbiamo anche uno che tra poco giriamo al coach sull'NBA, ma prima volevo tornare con Coach Peterson sul discorso adattamento degli americani, soprattutto delle stelle NBA. Coach, tu ne hai avute due di enorme grandezza. Che problemi hai avuto con Joe Barry Carroll, con Bob McAdoo, nel momento in cui si sono dovuti inserire da quel pianeta strano che è l'NBA, da stelle nella realtà italiana? Well, io penso che ovviamente tu stai parlando di due persone super, ok, Carroll e McAdoo e altri. Ho avuto più problemi con Henderson, diciamo. All'inizio Joe Barry Carroll era un po' cosa sto facendo in Italia per 6 settimane, poi si è innamorato della squadra, di tutto, il fatto di vincere tutte le partite, era molto contento lui. McAdoo si è adeguato subito, molti meriti in questo aveva Mike D'Antoni, che veramente ha fatto, non dico babysitter, ma accompagnatore di questi stranieri che sono venuti qua. Mike ha dei meriti incredibili in questo, però ovviamente io, secondo me, quello che hai detto prima cosa arbitraggi, l'interpretazione di passi, quello che è un fallo, non è un fallo, fatto di sono 5 falli, 40 minuti, anche l'intensità delle partite. McAdoo ha detto una volta che lontanamente la partita più intensa della sua carriera era la rimonta che abbiamo fatto a Milano contro Aris Salonica, avendo perso 31 lì abbiamo vinto 34 Milano, mai, cioè, l'unica partita della mia vita in cui non ho pensato all'attacco, ho pensato solamente a difesa, volevo stoppare ogni tiro e pigliare ogni rimbalzo. Quindi questo vuol dire che capiscono l'intensità. Quando sono venuti per esempio Shaney e Wally Walker da noi 84-85, non capivano l'intensità che si gioca, e Mike D'Antoni li ha portato a casa di Mike e gli ha fatto vedere una VHS delle partite finale contro Virtus, i tifosi, il rumore, l'intensità, gli arbitraggi, eccetera. Cioè, ragazzi, questa è la nostra realtà, dovete adeguarvi a questo, quindi è un aggiustamento. Arbitraggio, intensità, ovviamente avversari, campi, compagni, le altre cose, sistemi di allenamento, ma sopra è un po' di tutto e ci vuole 3 settimane, 2 mesi. Senti coach, tornando invece dall'altra parte del tabellone, secondo me c'è anche una Benetton Treviso che potrebbe non essere trascurabile, visto anche l'arrivo di Bulleri, una squadra pericolosa. Sì, voi avete letto, cioè, loro se passano il primo turno vanno contro il Siena, se io sono Siena dopo la prima serata, magari una vittoria facile, sono un po' rilassato a Treviso, perché lì Macbuti ha fatto un ottimo lavoro lanciando questi giovani. I giovani non hanno niente da perdere, sono carichi e vanno lì in campo e si inzeccano la partita. E poi sì, il favorito Siena, sì, è chiaro, però Treviso è, secondo me, la squadra, diciamo, cavallo nero si dice, non era cavallo scuro che nessuno riguarda, ma che è pericoloso. Coach, altra notizia di questi giorni, anzi di ieri per la verità, è un altro grande ex tuo giocatore, peraltro, Marco Bonamico, che va a presiedere la Lega 2. Quindi a Meneghin si aggiunge Bonamico, ne aspettiamo degli altri. Il senso è il basket in mano agli ex giocatori, agli ex grandi giocatori? Ma faccio un discorso globale, ovviamente il ballottaggio era fra Tony Cappellari e Marco Bonamico. Cappellari è stato mio general manager, sì, per 9 anni a Milano, e sarebbe andato bene sia uno che l'altro, sia chiaro. È caduto a Bonamico, e vedo che l'Italia adesso, questa è secondo me l'impronta digitale della gestione Meneghin, ex giocatori in ruoli importanti, quello che fa la Serbia, Kikanovic, Danilovic, Divac, sì, tutti ex giocatori che in ruoli importanti, cioè Kikanovic adesso, se non sbaglio, è presidente del comitato olimpico della Serbia, tanto per dire, mm-hmm, cioè ha fatto presidente del Partizan, adesso Danilo presidente del Partizan. Quindi loro vogliono questa praticità di queste esperienze di questi uomini qua. Poi Bonamico ha fatto benissimo a fare televisione per tanti anni, cioè con la Rai, sì, Rai Sportsat per le partite, quindi è conosciuto da tutti, la gente rispetta lui come una persona che conosce il basket, ha vinto 3 scudetti, ha fatto Olimpiadi, ha vinto l'Europeo, secondo Olimpico 80, primo Europeo 83, sì, quindi ha diverse qualifiche, ha fatto anche presidente della Virtus 34 quando la Virtus originale è scomparsa per un attimo, ha fatto presidente della GIBA anche di Europa per 4 anni, quindi ha diverse esperienze anche a livello manageriale, quindi secondo me questo è stato un'influenza. Sarebbe andato bene, sia chiaro, anche Tony Cappellari, che ha vinto 5 scudetti a Milano, ha fatto promozione a Varese, ha fatto la finale scudetto con come si chiama, con la Fortitudo Bologna, quindi erano 2 candidati che sono stati scelti dai 10 candidati originali, che ovviamente i due che sono stati convocati, sì, diciamo, per l'ultimo colloquio erano loro due. Ma Bonamico, l'indirizzo di questo qui, che vogliono l'immagine, la faccia, ex giocatore, gente che hanno fatto esperienza nel basket italiano proprio in prima persona in campo e anche preferibilmente con la nazionale, secondo me. Sì, comunque è senz'altro un esperimento importante per l'intero sport italiano, perché è la prima volta che lo sport italiano dal governo. Questa è una strada assolutamente nuova. Ho visto anche, cambiando discorso leggermente, l'intervista della Fiore. Della Fiore dice: sono emozionato, sì, ma dopo 29 anni che non indosso la maglia azzurra lo rimetto ancora. Ti venivano proprio le emozioni a leggere l'intervista della Fiore. E sono certo che lui è nazionale, buon amico in Lega 2, però queste sono persone, Meneghin, federazione, e quindi personaggi di un grande peso. Adesso, prima di salutare il coach, completiamo la panoramica sugli eventi di questa settimana. Io andrei, Flavio, allo spaventoso. Cosa dici di andare da Kryptonite? Prima guardavo ancora su YouTube quel salto del nanetto Nate Robinson, 1,75 m, che salta Dwight Howard e vince la gara delle schiacciate. Coach, posso dirti una cosa? Gran salto Nate Robinson, però che coraggio anche Dwight Howard, eh? Ma non dimenticare che Nate Robinson, pur grande salto, ha appoggiato la mano sinistra sulla spalla. Ecco, diciamo tutta la verità, ok? Quindi va bene. Comunque, no, ma sono contento per Nate, perché essendo un piccolino io, piccoletto, quando un piccolo fa così, mi identifico con lui assolutamente. E invece, coach, ci chiedono le prospettive di Bargnani dopo la trade di Toronto, insomma. Come la vedi? La prima partita non è andata bene, ho perso con Sean Marion e Bargnani, 11 punti, 4 rimbalzi, non bene Bargnani, però non c'era Chris Bosh. Voglio vedere la squadra completa, voglio vedere Chris Bosh, Bargnani, Sean Marion, Anthony Parker e Jose Calderon. Quando vedo quel quintetto insieme, Joey Graham che viene dalla panchina, allora cominciano a giudicare. Con Chris Bosh fuori è troppo difficile per loro, però Bargnani può trovare, è il momento di Bargnani, deve adesso far vedere quanto vale. Tra l'altro, ieri è stato nei nostri studi un grande della pallacanestro del basket NBA, il playmaker di Michael Jordan, BJ Armstrong. Dario Ricci l'ha intervistato, più tardi lo sentiremo. Parla soprattutto di Bargnani, di Berinelli e di Gallinari. Però al coach volevo chiedere ancora questo, una mia curiosità. È saltata all'ultimo momento la trade che avrebbe portato Shaquille O'Neal da LeBron James. Cleveland sarebbe stata più competitiva, ne siamo sicuri? Perché LeBron avrebbe avuto grande motivazione per farla funzionare, Shaq avrebbe avuto grande motivazione per far vedere, vincere un altro titolo, sì, sarebbe stato molto, ma molto, ma molto interessante, però è saltato per aria. Adesso Phoenix, dopo tante chiacchiere qui, licenziato l'allenatore, tornate allo sistema veloce di Mike D'Antoni, con il nuovo coach Alvin Gentry, 144 contro i Clippers, però adesso vediamo cosa fanno contro i Boston Celtics, la partita che noi faremo domenica sera su Sport Italia alle 23. In tutto con buona pace di Steve Kerr, che ha voluto cambiare allenatore, cambiare sistema e tutto quel che è. Senti coach, Bellinelli tra l'altro è rientrato, 6 punti in 15 minuti, avevamo un po' tutti paura che sarebbe rimasto seduto, invece no, dai. Che Don Nesso si fosse dimenticato, ma chi è questo? Non mi ricordo chi è questo qui, non lo faccio giocare. Sì, Don Nelson, il coach, però Bellinelli è stato bravissimo due volte quest'anno. Uno lungo periodo in panchina, quando è venuto il momento ha risposto benissimo, dato in quintetto, e poi dopo l'infortunio è rientrato 2 su 2 da 3, e Marco troverà il suo spazio assolutamente. Grazie coach, buon lavoro, ci sentiamo venerdì. Ciao amici coach. Sportivi, ciao a tutti. Ciao. Guarda che teniamo conto dei pronostici, la settimana prossima ci torniamo sopra sul pronostico finale della Coppa Italia che coach Peterson dà a Siena. Poi vediamo, intanto i primi due li ha presi, ha fatto bene a sottolinearlo il grande coach. Stefano Bologna, primo ascoltatore di oggi, buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Innanzitutto, come tifoso della Virtus, vorrei salutare, se ancora in ascolto, Dan Peterson, che ricordiamo tutti com'è un allenatore vincente, insomma, di grande personalità qui, anche quando poi si trasferì a Milano e ci furono scontri epici come la finale dell'84, i playoff dell'85 contro la Granarolo Felsinia, quindi grazie e tanta stima e riconoscenza per un allenatore di grande stile, di grandissimo livello da parte nostra. E volevo ricollegarmi, dato che non ho avuto la possibilità, vista la lunga lista d'attesa venerdì scorso, quell'episodio che voi avete commentato in maniera anche molto esauriente e significativa sul fatto successo a Caserta, no? Sì. Mi sembra vi chiedo anche lumi, perché io non ho avuto modo di leggere i giornali, mi sembra che ci sia stata una violenta contestazione e un tentativo di aggressione alla squadra, sì, ai giocatori. Ecco, se non erro, perché spiace poi dover fare. No, beh, è stato così è stato e così è, insomma, fatto che ha condizionato poi, io credo, anche la partita vinta da Caserta con la Benetton. Si è sgonfiata chiaramente, sì, la cosa, però è bene non dimenticare. No, assolutamente. Tra l'altro c'è stato perché anche vale tutto quello che avevamo c'è stato detto, anche, e abbiamo così l'opportunità di dirlo, c'è stato anche un movimento di Caserta sul mercato. Horace Jenkins ha finito la sua esperienza in maglia Eldo, è stato sostituito da Brent Darby, che è un giocatore che ha diverse esperienze soprattutto in Lega 2. Horace Jenkins, che sicuramente quando è arrivato a Caserta qualche equilibrio lo ha, certo, lo ha decisamente spostato, e ne ha fatte le spese Diaz, Di Bell e tutti gli altri, insomma. Sì, comunque è finita baci e abbracci dopo la vittoria con la Benetton Treviso, però ripeto, meglio anche non se Frates, adesso dico solo questo prima della viabilità, anche se Frates ha detto ok, tutto è bene quel che finisce bene, ma io certe cose le ho viste e me le tengo, quindi mm-hmm, baci e abbracci fino, giusto, a un certo punto. No, fa benissimo Fabrizio Frates. Palla spicchi. Eccoci tornati, aspettiamo altri ospiti naturalmente per parlare delle Final Eight di Bologna, che intanto, Flavio, sono comunque sempre un grande spettacolo, perché sono l'annuncio della primavera dei playoff, no? Sì, sì, e poi tutto il mondo della pallacanestro praticamente si trova lì, insomma, c'è una bellissima atmosfera, soprattutto da quando si svolgono a Bologna, c'è un'organizzazione sempre perfetta e puntuale. Io dico che, tornando al campo, che quest'anno c'è stato il passaggio di testimone, eventualmente ci dovesse essere un fattore sorpresa, cioè da Avellino a Teramo. Altre sorprese non ne vedo. No, Teramo-Virtus Bologna è una partita difficilissima per Teramo, perché incontri padroni di casa che peraltro nelle ultime edizioni sono sempre andati molto vicini alla conquista del trofeo, perdendo quasi sempre in finale, dunque avranno anche loro le loro belle motivazioni. Sì, ma poi è del tutto sui generis, no? Questa, sulla partita secca, perché come scriveva Coach Peterson nel compilare i pronostici, non è una serie 2 su 3, 3 su 5, è partita secca, non c'è verso, non c'è domani. Poi si tratta di è una spremuta, no? Una spremuta di basket del finale di Coppa Italia, anche perché devi vincere tre partite difficilissime una dietro l'altra nell'arco di tre giorni, veramente una sudden death. Dunque adesso voglio farvi, visto che ve l'ho annunciato, voglio farvi sentire un paio di brani dell'intervista realizzata ieri qui nei nostri studi da Dario Ricci con BJ Armstrong, perché tra l'altro, sapete, uno dei ne dobbiamo parlare una di queste volte con Coach Peterson, l'NBA che apre un ufficio in Italia, a Milano, sì, ma primo ufficio italiano dell'NBA. E quindi, insomma, l'NBA che apre gli occhi sul nostro movimento, e sono curioso anche di capire come lavorerà l'NBA qui in Italia, anche a livello di basket praticato, di campetti, di eventi, eccetera, qualcosa di molto interessante. Testimonial dell'NBA, BJ Armstrong, appunto, playmaker di Michael Jordan in una squadra leggendaria nei Chicago Bulls, ha parlato dei nostri italiani là. Ovviamente sono l'anello di congiunzione più importante tra questo ufficio NBA e quel mondo che sembrava così lontano. Dunque sentiamo cosa ha detto il playmaker di Michael Jordan su Bargnani e Berinelli e sulla loro vita statunitense. Bargnani, amo la pronuncia italiana del suo nome, ma non solo quella, è un giocatore eccellente, è arrivato nella Lega con sulle spalle la pressione di essere stato scelto col numero uno, ma a Toronto sta facendo un buon lavoro, ha molti punti nelle mani e un tiro non comune per un giocatore della sua altezza, è ancora un grande potenziale da sviluppare. Bellinelli non ha ancora trovato la sua strada, anche per il sistema di gioco particolare adottato da coach Don Nelson a Golden State, ma è un grandissimo tiratore. È solo una questione di tempo e verrà fuori alla grande. Dunque, il diretto interessato invece è su BJ Armstrong, su Danilo Gallinari, dato che è il suo agente americano. Sentiamo che cosa dice Duke Armstrong sul Gallo. Ha un futuro brillante davanti a sé. Ho passato molto tempo con lui e con la sua famiglia prima del draft di quest'estate, quando eravamo a Los Angeles per prepararci e allenarci. Credetemi, raramente ho visto un ragazzo con il suo tiro, con le sue qualità. È un grande giocatore. Sfortunatamente l'infortunio durante la preparazione lo ha condizionato parecchio, ma quando poi è tornato in campo si è ambientato velocemente. Speriamo che i guai siano finiti. Danilo ha molti anni di carriera davanti. Play for many years to come. BJ Armstrong, ambasciatore dell'NBA in Italia e magari di Radio 24 negli Stati Uniti, l'abbiamo riempito di gadget, quindi esporterà il nostro marchio. Sicuramente. E comunque io penso questo sull'apertura dell'ufficio NBA in Italia, che sarà meta per diversi scout, perché comunque lo scouting NBA da queste parti sta diventando sempre più diffuso come pratica. Io saluto la voce del basket su Sky, Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao, buongiorno a tutti. Che ieri ha raccontato Teramo. Jerry, Teramo come il Genoa, è il Genoa del basket. Poeta come Milito, è il principe. Mi sembra il paragone molto azzeccato. Se vuoi, stando nel basket, Teramo è l'Avellino di quest'anno. L'Avellino quella vera invece, t'ha deluso? Ma devo dire che un pochino me lo aspettavo, e sinceramente un calo nel secondo tempo. Sono andati avanti grazie alla grande prestazione di Warren, io credo che si siano manifestati un po' di, alla lunga insomma, un po' di problemi interni degli ultimi tempi che hanno portato la squadra a allenarsi non benissimo. Il calo nel finale ne è stata la conseguenza, e non a caso i due giocatori più freschi, Warren e Crosariolo, sono quelli che hanno giocato bene. A proposito, un Crosariolo così davvero ci fa ben sperare. E sì, ha trovato continuità sì, ad alto livello, soprattutto sembra sempre presente dentro la partita. Le sue pause mentali sono, insomma, erano la sua principale caratteristica, no? Mi sembra che siano... A me ha impressionato quest'anno, soprattutto credo che in questo la mano di Mirkowski sia stata molto importante, la capacità anche adesso di leggere le situazioni. Adesso è un giocatore di basket, anche quando non ha la palla, sa dove mettersi, sa come muoversi, insomma, devo dire che i miglioramenti non sono stati esclusivamente dal punto di vista tecnico, ma proprio a livello della comprensione del gioco. Senti invece Jerry, magari ti sarà capitato anche di dare un'occhiata, immagino, all'altra partita con l'Ottomatica Roma, che noto abbastanza in calo sia per questa partita che anche sull'ultima sconfitta in campionato. L'Ottomatica che aveva cominciato benissimo e poi forse sta ricominciando a prendere anche dalle nostre parti il trend negativo dell'Eurolega. Sì, io credo che il discorso sia abbastanza profondo, cioè intanto c'è una causa principale secondo me, che è un motivo fisico. Credo che la maggior parte dei giocatori principali stia attraversando un momento così dal punto di vista fisico. Mi riferisco in particolare a Becciro, invece, che ieri infatti ha giocato molto poco, ma anche allo stesso Hudson, che è un po' nuovamente in crescita, ma non è sicuramente quello così brillante visto nella prima parte di stagione. Ieri si è visto anche un calo di Brian Jaber, che nella gestione gentile è stato superlativo. A questo secondo me va aggiunta una causa di tipo, diciamo così, più profondo, un po' più a metà tra lo psicologico e il tattico, nel senso che l'effetto della scossa successiva all'allenatore si sta esaurendo. Sì. E questa è una squadra che sta dimostrando di non avere tantissime alternative dal punto di vista tattico, ha due o tre soluzioni in questo momento, così come per la verità anche nella versione Repija era una squadra che non poteva prescindere da Becirovic, e di Becirovic ne sta facendo a meno, del miglior Becirovic, sì, insomma, da diverso tempo. E questi problemi sono stati visibili soprattutto in Eurolega, dove il livello fisico è talmente alto che l'Automatica l'ha sofferto tremendamente. E adesso cominciano ad uscire anche in campionato, anche se devo dire che siamo sempre parlando di una squadra che nelle ultime 10 partite ha vinto 9 volte. Certo. Quindi, insomma, però a Teramo, dopo un ottimo primo quarto, la squadra è calata sensibilmente. E ieri invece ha cominciato subito così, ed è rimasta in partita grazie soprattutto a Ruben Douglas, che è appena arrivato. Insomma, ci sono un po' di cose da valutare. Io credo che l'assenza di uno staff tecnico, e non mi riesco solo a Nando Gentile, ma l'assenza di un suo assistente, anche magari esperto, che gli possa dare una mano in allenamento tutti i giorni, anche solo in organizzare allenamento, si comincia a sentire adesso, sì, a distanza di un paio di mesi. L'assistente, sì, è arrivato domenica scorsa, e forse da qua potrà ricominciare una risalita romana. Jerry, per chiudere, poi di Roma avremo modo di parlare dopo la pausa, perché stiamo aspettando aspettiamo un ospite proprio sulla Lottomatica. Tornando invece a Treviso, che per dirla alla Bob Dylan is knocking at heaven's door, sta bussando alle porte del paradiso. Ha ragione tutta la vita Bonicioli quando dice che non c'è gara sullo scudetto qualità prezzo. Scusami, no. Non c'è gara sullo scudetto qualità-prezzo per Teramo. Eh? Ah, scusami, per Teramo. Sì. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sottolineare la parola qualità, perché ieri abbiamo visto una delle versioni meno spettacolari di Teramo, soprattutto nel primo tempo, eppure ha vinto lo stesso. Questa è una squadra che, oltre a vincere, molto spesso è anche molto divertente da vedere giocare e sta producendo, ci sta facendo vedere una serie di giocatori estremamente interessanti. Ma detto tra noi, ha chance, secondo te? Ha chance di miracolo? La Coppa Italia è talmente strana che secondo me tutte hanno chance. Io credo, se vuoi sapere il mio pronostico, che Siena vincerà questa Coppa Italia, ma te l'avrei detto anche l'anno scorso. Sì, quindi sì. Vale, ma quest'anno, scusa Jerry, quest'anno secondo me la vince a mani basse, proprio perché tutti continuiamo a dire che Siena ha dominato la stagione, però non riesce a vincere la Coppa Italia, vai alla Final Four di Eurolega, ma in Coppa Italia non gioca bene, infatti, quindi sì, stravincerà anche questa. Anch'io sono di questa idea, però resta il fatto che questa è una competizione maledetta se sei favorito, perché è veramente sufficiente, non dico una giornata storta, ma mezza giornata storta, come è capitata a Siena 2 anni fa e l'anno scorso, anzi forse un quarto di giornata storta, e sei fuori. E quindi insomma il bello per chi è neutrale di queste manifestazioni, sono spettacolari e molto emozionanti, però insomma credo che quest'anno a maggior ragione Siena sia favorito. Grazie Jerry, buon lavoro. Grazie altrettanto. Risparmia la voce. Ciao. Grazie a Jerry De Rosa, prestissimo. Palla spicchi. Eccoci tornati per parlare di basket e per rispondere anche a telefonate ed sms, ma soprattutto per parlare con un campionissimo. È sempre difficile parlare dopo una sconfitta, però appunto lui è un campione. Dejan Bodiroga, buongiorno. Ciao Dejan. Buongiorno. Senti, ieri forse avete fatto il massimo, secondo me, senza Becirovic, perché Becirovic in questo periodo non dà quello che normalmente dà a tutte le sue squadre, no? Sì, credo che squadra ha dato massimo, soprattutto mi è piaciuta diciamo secondo tempo, una grande reazione dopo che la squadra è andata in uno svantaggio, si è dimostrato di grande squadra, insomma ha reagito, ha avuto anche diciamo possibilità di riprendere le partite, di vincerla. Per questo dico ha dato massimo, questo mi è piaciuto. Devo dire che al di là di questo non sono uno che parla di queste cose, però ho visto anche un arbitraggio troppo casalingo, nel senso che noi abbiamo aperto partita benissimo, siamo andati a +6, ricevere un tecnico a panchina nostra su +6 un po' esagerato, senza un avvertimento. Allora penso che ha cambiato inerzia di partita, sì. E siamo stati un po' penalizzati, soprattutto anche in prima parte di primo tempo, con tiri liberi che erano 19-4 per Bologna. Un altro episodio che mi sembra abbia cambiato inerzia della partita è stato quello sull'Insta 3 Play, su quel canestro che prima convalidato e poi non dato sulla stoppata di Ford. Anche quello è stato secondo me un episodio chiave, perché stavate rientrando nella partita. Sono d'accordo, ma al di là di questi singoli episodi diciamo importanti, sicuramente in una partita come questa di Instant Replay, come tecnico, come insomma altre cose, sempre cominciamo da noi e diciamo che noi abbiamo comunque fatto errori, fatto belle cose, però non vedo che, anche se una Final Eight si gioca a Bologna e Bologna è diciamo già fattore casa, che deve insomma, che Virtus deve subire queste cose, insomma la nostra squadra deve subire queste cose. Questo mi sembra un po' esagerato, abbiamo dimostrato in questi anni che siamo società che è più accresciuta a livello in Italia, in Europa, insomma cercando sempre di migliorare, sì. Però subire certe cose mi sembra esagerato e ieri abbiamo subito. Senti Dejan, a livello generale si può dire che fisicamente non stiate vivendo un momento brillantissimo, dopo che quando ci sono state le dimissioni di coach Repeja e con Gentile la squadra aveva dato tantissimo, il che vi ha portato a vincere tutte quelle partite in campionato? Sì, devo dire che probabilmente non stiamo fisicamente al massimo, la squadra ha speso tanto, sia in campionato per rientrare per rientrare in, diciamo, in gioco, e sai, in un momento stavamo anche fuori, diciamo, di Coppa Italia e playoff, abbiamo fatto 9 vittorie di fila, sicuramente è stato un grande sforzo. Poi dopo, anche giocando ogni 3 giorni, insomma, si nota. Allora devo dire che probabilmente stiamo accusando un po' anche pressione di un paio di giocatori a livello fisico anche, che si poi nota in gioco della squadra. Tanto la nota lieta di ieri è stato l'innesto di Ruben Douglas, 2 allenamenti subito in campo e subito una grande partita di grande personalità, e poi anche tecnicamente il giocatore che vi mancava, quello in grado di crearsi un tiro quando si spezzano i giochi, soprattutto. Sì, credo che, devo dire, insomma, si è inserito. Ieri non era una facile partita per lui, però ha dimostrato grande voglia, ha dato grande energia, ha fatto anche, diciamo, belli canestri. Adesso aspettiamo anche che avrà un tempo per conoscere un po' la squadra, e ci vorrà un po' di tempo, però sicuramente un innesto, se dico, importante. È stata una nota positiva di partita di ieri. Ritieni che questa squadra, che la tua squadra, possa attaccare Siena per lo scudetto? Ma guarda, io penso che Siena gioca in un livello grande, stanno insieme da 3 anni, hanno una continuità di gioco, arrivano in ogni partita con grande motivazione, questo stanno dimostrando, e questo è da sottolineare e di complimentarsi con loro. Noi facciamo un campionato non solo su Siena, ma anche sulle altre squadre, su stessa Bologna, su altra Bologna, su Milano, su tutto il campionato. Stiamo facendo e cerchiamo di avere continuità, di migliorare. Noi dobbiamo fare il nostro massimo e non guardare cosa fa Siena, ma dobbiamo guardare anche le altre squadre, perché insomma non vogliamo sottovalutare nessuno, ma vogliamo migliorare. Credo che abbiamo un buon organico anche sotto canestro, fuori. Sicuramente dobbiamo cercare di evitare diciamo errori, no? Di migliorare il nostro gioco, ma con una serenità. Abbiamo buona posizione in campionato, insomma mancano 11 partite, cercheremo di arrivare, insomma, pronti per playoff. Dan, voglio chiederti ancora questo, una domanda più personale, che riguarda più te, perché ce la gira un ascoltatore da Bologna, se non sbaglio, 349-238-6666 per i messaggi, e domanda: Nicola, chiedete a Dejan se ha rimpianti NBA. Prima abbiamo parlato di un NBA che annodi fili con l'Italia, che ha aperto un ufficio qua da noi, non so quali rapporti avrà l'NBA con le nostre società, questo è un altro aspetto da chiarire, ma tu hai rimpianti NBA, Dejan? No, abbiamo già parlato tante volte. No, non ho rimpianti, è una cosa che, insomma, un campionato che io, insomma, rispetto moltissimo, ho avuto più di una possibilità di andarci, ma ho preferito rimanere in Europa, giocare in grandi club, giocare per grandi traguardi, per trofei, per giocare in un altissimo livello qua, insomma, non c'ho rimpianti. Sembra di sentir parlare un tuo amico e mio amico, cioè Sasha Djordjevic, che dice esattamente le stesse cose che io condivido, peraltro. Meglio numero uno qua che, insomma, che buon giocatore da quell'altra parte. Grazie Dejan, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. A presto, Dejan Modiroga. Dunque, adesso torniamo agli ascoltatori, direi. Massimiliano, provincia di Como, è il primo. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Volevo un attimino un commento sulla mia squadra di basket, la Cantù. Sì. Se stasera proprio non ci sono chance o ce la possiamo giocare, e come la vedete poi anche a livello in prospettiva di campionato, per i playoff, visto che ogni anno Cantù ci stupisce, che rifanno la squadra da zero e riescono sempre certo, ad assimilare un numero di giocatori minimo per fare un bel campionato. Ma sai cosa? Ci sono riusciti anche quest'anno. È bello, è bello meravigliarsi, insomma. Io non penso che Cantù abbia grandi chance questa sera contro una Siena arrabbiata, perché questa sarà Siena di queste Final Eight, una Siena arrabbiata che ha voglia di mettere le mani su quel trofeo. Però siamo sempre lì, partita secca. Fa sempre chi lo sa anche se non è calcio, dai, fa sempre un po' stare a sé, però secondo me il nostro ascoltatore può trarre un po' più di soddisfazione su Cantù in prospettiva, perché credo che Cantù comunque alla fine i playoff li farà, per quello che sta facendo adesso, anche se ci sono alcune squadre che potrebbero rientrare nel giro. Mi viene in mente sicuramente Milano, che in questo momento potrebbe essere fuori o comunque lì a cavallo, la stessa Pesaro potrebbe anche recuperare un po' di terreno, però Cantù anche quest'anno, per la verità, non facendo la squadra proprio da zero, ma tenendo alcuni giocatori che aveva già l'anno scorso, prendendo americani abbastanza collaudati come Elder e Pinkney, sta ottenendo dei grandi risultati anche in questa stagione. Poi, qui Bruno Arrigoni ha come al solito un grande merito. Poi, come ti dicevo, inutile star lì a pensare cosa può essere di Cantù, per Cantù è bello meravigliarsi, no? È bello meravigliarsi, come capita ogni anno nelle stagioni più recenti, è bello meravigliarsi, è bello scoprire nuovi protagonisti che sai già che passano e vanno via. Cantù è fatta così, i risultati sono splendidi, credo, sono d'accordo sul fatto che Cantù alla fine farà i playoff. Avesse il playmaker dell'anno scorso, quello che è andato a Treviso ed è stato reintegrato da Sean Wood, invece su Indiana Gaines, che a me non fa impazzire, beh, a quel punto pensiamoci, perché due americani come Elder e Pinkney, che a me piacciono molto, con quell'altro playmaker sarebbe forse un'altra storia. Matteo da Piacenza, salve, buongiorno. Salve. Io, tifoso Virtus, ho seguito ieri sera la partita e volevo sottolineare come ieri, in un momento difficile della Virtus, Roma sul più 6, Roma ha un fallo tecnico inutile e che ha forse segnato anche il proseguo della partita, visto che Roma poteva mettere un break importante. Secondo, volevo sottolineare la prova di Alex Righetti e quella di Douglas, prima presenza con la maglia di Roma, che si è portata sul gruppone della squadra e ha fino al meno 4 con Gabini. Sì. E poi volevo sapere se avevate informazioni sull'infortunio di Langford. Grazie. Informazioni sull'infortunio di Langford? No, però le vedrà che dopo il traffico che ci attende alle 14.45 le avremo. Quindi stia in ascolto. Quanto al resto quel tecnico, bene, ha già parlato Bodiroga. Con Roma discretamente arrabbiata con gli arbitri, avete sentito Bodiroga, ha detto quel tecnico arrivato all'improvviso senza avvertimenti eccetera eccetera, senz'altro ha cambiato un po' l'inerzia della partita. Quanto a Ruben Douglas, mi è piaciuto molto ieri sera, credo che sia un giocatore estremamente funzionale a una Roma che ha sempre problemi di playmaking quando Giachetti non è in campo, perché Jaber è uno splendido giocatore ma non è un playmaker puro, Jennings men che meno, e dunque gioco offensivo piuttosto macchinoso quello di Roma, e Douglas è quello, ne parlavamo prima con Bodiroga, in grado di procurarsi dei tiri, abbiamo visto già da subito ieri sera quando i giochi di Roma si spezzano, e si spezzano anche troppo presto, soprattutto quando non c'è Giachetti in campo, ripeto. Per quanto riguarda Langford invece, il problema è abbastanza strano, nel senso che è un mese e mezzo che questo giocatore ha problemi all'inguine, gli accertamenti clinici non hanno ancora evidenziato cosa in realtà possa avere questo giocatore, che però, diceva Bonicioli, viene sempre molto frenato psicologicamente, perché comunque lui sente dolore e dunque non si sa nemmeno se giocherà nella partita di sabato, ecco, bisogna vedere se ce la farà, però il problema è all'inguine, è da valutarne l'entità, perché non si riesce a capire bene che cosa abbia in effetti. Cosa diavolo abbia Keith Langford, che è un giocatore molto importante negli equilibri di Bonicioli, ma non devo certo dirlo io. Palla spicchi. Dunque, da un protagonista all'altro, ci sono, come ben sai Flavio, tre personaggi che cercano il back to back, no? Chi sono? Sì. Allora, sì, in panchina? Back to back in Coppa Italia, dai. Stavo cercando delle informazioni. Bonicioli, Zorzi. E in campo? In campo Righetti, che l'ha vinta l'anno scorso. Alex Righetti. Buon pomeriggio, Alex. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Mi fai ste domande così mentre io cerco in giro e poi rischio di farle figuracce. Chiediamolo, visto che ci ha chiesto l'ascoltatore informazioni di prima mano. Keith Langford, come sta? Questo problemino ieri, che sinceramente è un po' di tempo che sono sto tirando dietro, perché comunque sia tra impegni in Coppa, campionato, non ha mai potuto riposarsi adeguatamente, però credo comunque oggi avrà un giorno pieno di terapie, domani credo possa essere in campo tranquillamente. Vediamo, comunque oggi come starà, se starà un po' meglio, insomma sono passate 24 ore, quindi vedremo un attimo. Alex, vincere con Avellino l'anno scorso credo sia stato qualcosa di molto speciale. Beh sì, perché è stata una stagione, un'annata particolare, sia per noi giocatori che penso per la città, per il club. Una società che in estate ha avuto rivoluzioni, è andato via il presidente vecchio, nuova società, nuovo organigramma. E poi inizio anno, insomma, nessuno si aspettava che Avellino potesse fare una stagione del genere, tantomeno arrivare in Coppa Italia in finale e arrivare a vincere, quindi una sorpresa per tutti. Però penso che comunque sia stata una stagione meritatissima anche per il livello di basket che abbiamo dimostrato, per come giocavamo e per la pallacanestro espressa, insomma penso che alla fine ci siamo meritati quello che ci siamo guadagnati. Ah, non c'è dubbio su questo. L'impressione, passando alla Virtus, la tua squadra attuale, ieri sera un primo tempo perfetto, no? E comunque una partita di cui immagino essere soddisfatti. Sì, sicuramente, insomma sono partite queste qui senza ritorno, quindi sono partite strane dove c'è tanta tensione in campo, c'è tanta aggressività, e come succede molto spesso nei playoff, insomma sono partite in cui il livello di fisicità cresce molto rispetto al campionato, quindi sono partite in cui magari puoi essere avanti di 10 e in 2-3 minuti sei di nuovo pari. Però penso che sia stata una partita molto ben giocata, insomma abbiamo preso vantaggio al primo tempo, al secondo tempo Roma si è fatta sotto, però comunque sì, abbiamo cercato di amministrare il meglio possibile, abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato tiri importanti con Vukcevic, quindi penso sia stata una bella partita e siamo riusciti a spuntarla noi, e adesso domani ci aspetta un'altra grande battaglia, e comunque sia non dimentichiamo che Teramo sta giocando una pallacanestro di ottimo livello. E tutti dicono che Teramo è la nuova Avellino, insomma. Ma speriamo di no, perché sarebbe un guaio, però di sicuro sta dimostrando di valere la posizione in classifica, di valere il fatto che sia arrivata per la prima volta in Coppa Italia e di essere in semifinale, quindi tanto di cappello. Però insomma noi vogliamo arrivare a questa terza finale consecutiva, che però negli ultimi anni è andata un po' male per Bologna, quindi vogliamo cercare cambiare il trend. Esatto, di invertire questo trend. Allora facciamo così, come dicevo prima parlando con Jerry De Rosa, facciamo Teramo il Genoa del basket con Poeta come Milito. Esatto, già meglio. Senti Alex, l'impressione è che Bonicioli comincia ad avere, ne parlavo prima con Coach Peterson, la Virtus in mano, che Bonicioli e la Virtus si siano capiti, che Boykins e Bonicioli si siano capiti, l'impressione è che comincia a funzionare questo rapporto. Tu che Matteo lo conosci strabene, non soltanto per l'anno scorso ma anche per trascorsi nazionali eccetera, cosa dici? Ma guarda, io penso che comunque sia ci siamo capiti da subito. Sì. Infatti comunque sia dal suo arrivo abbiamo fatto una striscia di vittorie importante. Poi è chiaro, abbiamo avuto un periodo in cui probabilmente abbiamo pagato qualcosa a livello fisico, avevamo qualche acciaccato, qualche infortuni, sicuramente non un momento felice da parte nostra, abbiamo fatto qualche sconfitta. Penso che in questo periodo ci siamo ripresi molto bene, a parte in Coppa contro la squadra tedesca, perso all'ultimo secondo. Sì. Con un tiro da tre, insomma siamo 5 su 5, quindi è una squadra che si è ripresa molto molto bene. Come detto prima, abbiamo avuto un appannamento tra dicembre e gennaio, penso che una flessione penso che sia comunque normale per una squadra che gioca 2-3 partite a settimana, in cui sicuramente c'era qualcosa che magari non andava, però penso che sia nella norma delle regole, insomma. Matteo ha sempre avuto questa squadra in mano, ha sempre avuto giocatori dalla sua parte, Boris che compreso, anche se ha avuto quella piccola faccenda con il figlio, però comunque sia, penso sia una cosa legittima. Però tutti noi abbiamo sempre dato massima disponibilità a lui, e io credo che lui si sia sempre sentito questa squadra in mano sin da subito dal suo arrivo qui in Bologna. Immagino che per un tiratore come te poi giocare con un playmaker così sia conveniente, no? Perché il pallone ti arriva in mano con le righe giuste. Bravo, è abbastanza. Ho avuto già modo di scaldarmi l'anno scorso, quindi quest'anno sono già più preparato. Mica male gli ultimi due che hai avuto. Esatto, uno meglio dell'altro. Difficile anche la scelta, Difficile anche la scelta, hai ragione. Esatto. Grazie Alex, in bocca al lupo. Grazie a voi, Crepi. tutti. Grazie, buona giornata a presto, tutti. A presto con Alex Righetti. Torniamo agli ascoltatori, purtroppo siamo quasi in chiusura. Stefano Varese, buonasera, anzi buongiorno. Sì, ciao, Stefano da Varese. Senti, una domanda. Cosa ne pensate della nuova nomina per presidente della A2, sì, di un grande della pallacanestro, e poi una grande speranza di un ritorno di Varese in A1, perché il basket a Varese è storia e leggenda. Sì, ci arriva? Secondo me sì, Stefano? Speriamo. No, il campionato di Lega 2 è un inferno quest'anno. Sì, mai poi, come quest'anno il campionato esatto, di Lega 2 è molto più equilibrato di altri, ancora più equilibrato rispetto al passato. Sulla nomina di Monamico abbiamo detto, insomma, dopo Meneghin, grande giocatore, monumento, mito, insomma tutto quello che vuoi, la pallacanestro evidentemente sembra stia cercando di affidarsi a questi ex giocatori. Guardate che è un esperimento, è qualcosa di rivoluzionario per lo sport italiano. Insomma, io come mai mi trovo a fare il tifo per Meneghin e adesso anche per Marco Bonamico, nuovo presidente della Lega 2. È un esperimento rivoluzionario, mi auguro che possano portare quello che si chiede loro, carisma, personalità e, ripeto, capacità decisionale, perché di questo la pallacanestro italiana in questo momento ha bisogno. Dovete cercare un consenso totale che non esisterà mai. Si troveranno a scontrarsi con dei problemi, si troveranno a scontrarsi con dei disaccordi e a quel punto dovranno dimostrare di essere Dino Meneghin e Marco Bonamico, insomma, come erano in campo, grandi leader. Vediamo, in bocca al lupo senz'altro a Bonamico. E per questo campionato di Lega 2 dicevamo, Flavio, un equilibrio pazzesco. Sì, assolutamente un equilibrio pazzesco. Settimana prossima ne parliamo con più calma, perché è un argomento interessante. Tieni conto del fatto che Reggio Emilia, che era una delle squadre che pensava di fare un campionato di altissimo livello, che ha cambiato Franco Marcelletti, è arrivato Ramagli, non ha ancora vinto sulla panchina di Reggio Emilia, che adesso ha preso un nuovo giocatore. C'era un SMS, sì, che cercava Glenn McGowan, che è un giocatore che è arrivato a Reggio Emilia, tra l'altro era passato di striscio alla Virtus Bologna di Sabatini nel 2005, se non sbaglio, poi ceduto a Colonia, fece ritorno alla Virtus, andò in Turchia al Galatasaray e Meteore. Ma Sabatini, ho letto un'intervista qualche giorno fa, era contentissimo perché l'ha visto un giorno solo, ma ci ha guadagnato un bel po' di soldi, perché poi il Galatasaray gli fece un'offerta irrinunciabile dopo il campionato che McGowan aveva giocato a Colonia. È un numero 4 come ruolo, è un giocatore che sposterà un po' gli equilibri. Chiaramente esce Bryant Smith dal roster di Reggio Emilia, l'ex trevigiano voluto da Marcelletti. Con questo giocatore si spera di invertire un po' questa tendenza, sperano a Reggio Emilia. 6 sconfitte consecutive in un campionato così equilibrato non sono poche. Sì, resta il fatto che comunque nei numeri è stata, cioè per i numeri che aveva, è stata abbastanza misteriosa la cacciata di Marcelletti, perché tutto sommato la squadra non stava andando male, tutt'altro, tant'è vero che è ancora lì davanti nonostante le 6 sconfitte in fila, quindi evidentemente c'era qualcosa di diverso, che non fossero dei risultati che non, ripeto, non legittimavano il licenziamento dell'allenatore. Direi che siamo in chiusura, Flavio. Chi vince la Coppa Italia? Siena? Tutti sì, d'accordo su Siena? Siena, sì. Mai come quest'anno. Io dico Virtus Bologna, così esco dal coro. Benissimo, vediamo venerdì prossimo chi ha ragione. Molto bene, venerdì prossimo facciamo i conti. Venerdì prossimo, quando, vi ripeto, andremo un po' sull'argomento Lega 2, perché che trovo molto interessante. Dunque, ci salutiamo, con lo sport torniamo naturalmente domani, vale la pena riepilogare gli appuntamenti del weekend, anche perché c'è un piccolo cambiamento. Domenica sera non c'è posticipo, non ci saremo neanche noi, ci saremo dalle 20 alle 20:30 per raccontarvi il gran finale delle Final Eight di Bologna, per dirvi chi alzerà questa benedetta Coppa Italia. Quindi domani appuntamento dalle 17 alle 18, come sempre, come ogni sabato. Domenica ci sentiamo dalle 17 alle 19 e poi dopo il GR delle 20 e fino alle 20:30 per il basket. Mentre non ci saremo domenica sera dalle 22 alle 23, ma solo per questo giro, perché poi riprendono i posticipi e riprenderemo anche noi. Grazie Flavio Suardi, alla prossima. Alla prossima, venerdì. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadone in regia. Un saluto a tutti, ci sentiamo domani.